Le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Spiati politici e vertici istituzionali, due arresti a Roma, tra le persone intercettate anche Renzi, Monti e Draghi, i dati su server americani sequestrati dall'FBI. Protesta della base contro Grillo, dopo il fallimento dell'accordo con i liberali al Parlamento europeo, i popolari attaccano Verhofstadt, la sua firma non vale niente. Strade gelate, incidenti e code a nord-est, ancora neve al sud, molte scuole chiuse in varie parti d'Italia, ancora disagi a Roma, in alcuni istituti temperature sotto i 10 gradi. L'immigrazione inizia il pressing sulle regioni, morcone ai prefetti friulani se i sindaci non accolgono imporre le quote, in Friuli Venezia Giulia profughi meno della metà dei comuni. È ufficiale, da 2026 il mondiale di calcio sarà 48 squadre invece delle 32 attuali, si attendono 640 milioni di profitti in più. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it, non l'abbiamo messo nei titoli, ma poi nella seconda parte della trasmissione, nel nostro giro per l'Italia, ci occuperemo, andremo anche a Padova, ci occuperemo di questa vicenda, di una sentenza arrivata poco fa di un ragazzino di 13 anni giudicato troppo effeminato e per questo tolto alla madre. Però iniziamo da questa vicenda che riguarda lo spionaggio ai danni di politici e istituzioni, il punto con Teresa Trillò. Buongiorno Teresa. Buongiorno Simone. Sì, allora sono tanti i nomi finiti sotto spionaggio. Si comincia con Mario Draghi, Matteo Renzi, Mario Monti, Fabrizio Saccomanni, c'è anche l'ex comandante della Guardia di Finanza Saverio Capolupo, ma anche il cardinal Ravasi, e questi sono appunto solo alcuni nomi dei personaggi spiati da un ingegnere nucleare e da sua sorella, Giulio Occhionero, 45 anni, e Francesca Maria, 49, arrestati questa mattina dalla polizia nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma su una centrale di cyberspionaggio. I due sono residenti a Roma, ma domiciliati a Roma, e sono molto conosciuti nel mondo della finanza capitolina. Secondo l'accusa, grazie a un'estesa rete di computer infettati tramite la diffusione di un malware, i due hanno per anni raccolto e catalogato dati e informazioni sensibili appunto di decine di persone. I dossier sono stati gelosamente custoditi su impianti informatici statunitensi che sono stati sequestrati oggi dalla polizia postale, grazie anche al contributo dei colleghi della Cyber Division dell'FBI. I reati contestati agli arrestati sono procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, accesso abusivo a sistema informatico aggravato e intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Da Roma è tutto, ti restituisco la linea. E grazie dunque a Teresa Trillò per questo aggiornamento. Sul fronte più puramente politico resta in primo piano il tentativo fallito del Movimento 5 Stelle di cambiare gruppo nell'Europarlamento. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, il passaggio all'ALDE è fallito e adesso la base 5 Stelle protesta sul blog, malgrado ieri abbia votato l'iniziativa con il 78,5% dei sì. Protestano soprattutto coloro che avevano già mostrato scetticismo, e a poco valgono le urla di Beppe Grillo, per il quale il movimento ha fatto tremare il sistema, ma è stato fermato dall'establishment. Stamattina parla Nils Torvalds, uno degli animatori della retromarcia di ALDE nell'accordo con il Movimento 5 Stelle all'Europarlamento. Non avrei più potuto guardarmi allo specchio se quel patto tra Verhofstadt e Grillo fosse andato in porto. Gui però è un politico navigato, ha capito che la maggioranza di noi lo avrebbe sconfessato. Ma i popolari europei attaccano, stilettata di Manfred Weber a Gui Verhofstadt. Si direbbe, dice Weber, che la firma di Verhofstadt non vale la carta su cui è stata messa. E poi invece ci sono anche le critiche dall'Italia, perché per Matteo Salvini è la pessima ennesima figura in Europa del Movimento 5 Stelle. Sempre più elettori grillini si pentono di aver votato per appunto i 5 Stelle, una figuraccia, una punizione all'opportunismo di Grillo per il PT. A te Simone. Grazie dunque Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento, a questo è dedicata l'analisi del martedì di Daniele Biacchessi. Lo schiaffo dei liberali dell'ALDE alle nuove scelte europeiste di Grillo dimostra la confusione che regna nel Movimento 5 Stelle, ormai diviso tra la storica identità di opposizione in Italia e in Europa e il peso delle possibili responsabilità di governo che si potrebbero delineare in caso di vittoria alle prossime elezioni politiche. Il 5 Stelle ha deciso di abbandonare l'alleanza tattica con l'UKIP, anti-europeista, per approdare nel gruppo ALDE dei liberali europei, i quali hanno immediatamente rifiutato l'accordo, come avevano fatto tempo prima i Verdi. E ora il 5 Stelle si trova in pochi giorni fuori dai giochi, alla ricerca di una collocazione in Europa e di una nuova identità di governo in Italia. Cosa insegna ciò che è accaduto? Con l'accordo firmato lo scorso 4 gennaio, i liberali avrebbero cooptato 17 europarlamentari del 5 Stelle e sarebbero dunque diventati il terzo gruppo politico dopo Popolari e Socialisti. Invece hanno voluto infliggere una dura lezione al 5 Stelle, affermando il principio che il cosiddetto europeismo non può essere negoziabile, neppure manipolabile, secondo schemi di mera opportunità. Gli aggiornamenti sul fronte del maltempo e soprattutto del freddo. Roberta Pellegatta, buongiorno, ciao. Buongiorno. Centro-Sud ancora nella morsa del gelo, in particolare in Puglia, dove dopo la tregua di ieri è tornato il freddo. Nevica, tratti sulla Murgia Barese e in alcune zone dei Monti Dauni. Nella regione l'80% delle scuole rimane chiuse e molte non riapriranno neanche domani. Le associazioni agricole parlano di danni incalcolabili all'agricoltura in Puglia, dove il governatore Emiliano ha chiesto lo stato di emergenza, ma anche nelle altre regioni colpite dal maltempo. Intanto ancora disagi e ritardi si registrano all'aeroporto di Pescara a causa della neve e in Abruzzo emergenza idrica per i contatori ghiacciati. Rimangono problemi anche in Sicilia, Enna è rimasta senza acqua per un problema elettrico ad una diga e il ghiaccio è il problema principale a Matera, dove è al lavoro anche l'esercito per liberare alcune strade impercorribili e anche in queste regioni scuole chiuse. E ci sono disagi anche nelle scuole romane per il freddo. Molti studenti di diversi licei e istituti oggi non sono entrati in classe per le temperature glaciali causate dai tubi ghiacciati, tanto che il Codacons ha già annunciato un esposto. E la neve oramai è attesa anche al nord, in Liguria, in Piemonte, in parte della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna. Non si escludono fiocchi in città come Torino, Milano, Brescia e Mantova. Non si tratterà di una vera e propria perturbazione, dicono gli esperti, dunque nulla di grave come è successo al centro-sud. Tuttavia la polizia stradale raccomanda agli automobilisti di limitare i viaggi. E per il momento è tutto. Grazie dunque Roberta Pellegatta e andremo in un paio delle scuole di Roma e dei dintorni di Roma più avanti, nelle quali il freddo si è fatto sentire particolarmente, le lezioni sono state piuttosto complicate, lo faremo più avanti nel nostro giro per l'Italia. A Nola i medici sono eroi che hanno fatto il loro lavoro, ma in Campania ci sono problemi amministrativi. Le parole sono del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin sul caso dell'ospedale, ve l'abbiamo raccontato ieri, nel quale sono stati ritratti alcuni pazienti mentre venivano curati a terra. Ho chiesto un resoconto dettagliato ai commissari di governo che arriverà nel pomeriggio. I NAS sono già andati ieri, hanno già verificato che ci sono problemi organizzativi, ha spiegato il Ministro della Salute. Nel Lazio, operazione della Digos con perquisizioni nei confronti di persone sospettate di appartenere ad organizzazioni terroristiche. È scattata una nuova misura di custodia cautelare nei confronti di un uomo, un tunisino sospettato di essere un affiliato di Ansar al-Sharia, organizzazione considerata legata ad Al-Qaeda. L'uomo è già in prigione, ma è proprio nel corso della detenzione che avrebbe fatto proseliti, avrebbe addirittura minacciato i detenuti cattolici. Aveva esultato dopo i recenti attentati. La conferenza stampa dei carabinieri, sentiamone un passaggio. Noi abbiamo posto in essere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere al signore che vedete lì effigiato, Hamidi Saber, che è praticamente un tunisino dell'84, che è qui in Italia dal 2008 perché si è sposato con una italiana che ha cambiato la sua religione, l'Islam, si è sposato ed ha una bambina. E vive, diciamo così, di espedienti e quindi di furti, vive sostanzialmente di furti, di spacci di sostanze stupefacenti. Sono stati scarcerati i due giovani italiani arrestati in Thailandia per aver strappato alcune bandiere nazionali. Tobias Gamper e Jan Gerstgrasser sono stati processati questa mattina e condannati ad una pena pecuniaria. Verranno espulsi, come ha riferito il senatore dell'SVP Karl Zeller, che è in contatto con la Farnesina. I due ragazzi sono ancora sotto sorveglianza della polizia. Arrivano delle novità per quanto riguarda la gestione soprattutto del Colosseo, ma anche di Pompei, il servizio. Colosseo, Foro Romano e Domus Aurea come parti di un unico grande parco archeologico e a gestirlo un direttore manager da individuare con bando internazionale e poi una sola sovrintendenza speciale che sostituirà quella esistente. Sono questi gli elementi più importanti della rivoluzione voluta dal ministro Dario Franceschini e iniziata nel 2014. In pratica la nuova sovrintendenza perde la gestione dell'anfiteatro Flavio e dei fori ma si occuperà di tutto il resto del patrimonio di Roma. Una missione che sarà possibile anche dirottando il 30% degli incassi del Colosseo, circa 11 milioni di euro, alla tutela del resto del patrimonio capitolino. Nel decreto, novità in vista anche per Pompei, inserita nella lista dei 30 musei autonomi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Via libera dalla FIFA e passiamo a parlare di calcio al mondiale a 48 squadre. Naturalmente non da oggi, Giovanni Capuano, no? No, dal 2026, quindi anche la prossima edizione, quella del 2018 in Russia e anche l'edizione del 2022, che è quella del Qatar, resteranno con l'attuale format, quello delle 32 squadre, che poi è quello che abbiamo conosciuto nell'ultima parte di questa prestigiosa manifestazione. Il Consiglio della FIFA ha ratificato oggi il passaggio alle 48 squadre e si comincia nel 2026. La sede è ancora da assegnare, anche se le favorite sono in realtà tre nazioni che dovrebbero organizzarlo insieme, Stati Uniti, Canada e Messico. E anche questo per il Mondiale sarebbe davvero una rivoluzione storica. Ci saranno 80 partite, ci sarà un diverso format, soprattutto nella prima fase, perché si passerà dai gironi a quattro squadre che abbiamo conosciuto anche in Brasile nel 2014 a un format con 16 gironi da tre squadre. Si qualificano le prime due, si va ai sedicesimi di finale e da lì in poi a eliminazione diretta sino alla finale, il che significa che chi dovesse alzare la coppa giocherà al massimo 7 partite, esattamente come ha fatto oggi. Ci saranno anche altre novità che scopriremo nei prossimi minuti, perché il voto è di un'oretta fa a Zurigo da parte del Consiglio della FIFA. Infantino sta per tenere una conferenza stampa e ad esempio tra le novità dovrebbe esserci anche l'abolizione dei tempi supplementari, almeno fino ai quarti di finale o alle semifinali. Questo per rendere il format il più possibile televisivo, perché poi dietro tutto, oltre alle questioni politiche, evidentemente Infantino incassa una vittoria perché questo era un suo desiderio, evidentemente allarga la base del suo consenso anche a continenti che avranno più spazio al mondiale. Alla base di tutto, dicevamo, ci sono i soldi, perché alcuni studi stimano tra 600 milioni di euro e 1 miliardo di euro il maggior incasso per la FIFA con il mondiale formato maxi. Cosa significa? Significa che la FIFA riuscirà a essere più ricca. Ricordiamo che i ricavi del mondiale rappresentano l'85% del fatturato della stessa FIFA. E quindi, insomma, dal punto di vista del portafoglio, certamente oggi Infantino vince. E dunque, dettagli, presumibilmente anche sulla conferenza stampa di Infantino, ci saranno a partire dalle 14 in tutti i convocati. Noi, a chiudere questa prima parte della trasmissione, ci occupiamo di spettacoli e ci occupiamo di Sanremo, perché c'è una specie di giallo intorno alla presenza di Maria De Filippi. Marta Cagnola, che giallo è? Allora, in realtà il giallo è più sulla notizia che sulla cosa in sé, che parrebbe a questo punto essere proprio vera. Ricostruiamo un po'. Caro Carlo, accetto il tuo invito, sarò a Sanremo, così annunciava questa mattina la Mondadori uno scoop del settimanale Chi ne dico la domani, cioè chi svelati tutti i retroscena della trattativa segreta durata quasi un anno tra Carlo Conti e Maria De Filippi, anticipati i nomi dei primi ospiti: Piano Ferro, Zucchero, Giorgia, Paola Cortellesi, Miriam Leone, in trattativa Mengoni e Crozza, tra gli internazionali Ed Sheeran e Stevie Wonder. Insomma, tutto plausibile, attendibilissimo. Poco dopo però appare un tweet di Giancarlo Leone, che ora è consulente della RAI per il festival: avviso ai naviganti della Riviera, l'intervista a Chi è un fake. Quindi la dichiarazione di Maria De Filippi è che parla di scoop immaginario e suggestivo e dice: Alfonso Signorini è sicuramente un grande direttore di giornale perché riesce, attribuendomi una conversazione immaginaria tra me e Carlo Conti, peraltro mai avvenuta e tantomeno mai dichiarata al giornalista di Chi, ad anticipare un ipotetico sì alla mia presenza a Sanremo. Domani ci sarà la conferenza stampa e se sarò presente le conversazioni non saranno più immaginarie ma reali. Insomma, potrebbe essere tutto vero tranne l'intervista. Ma a questo punto interviene Alfonso Signorini, il quale dice: noi non abbiamo mai parlato di intervista, abbiamo solo fatto una ricostruzione e caro Carlo, accetto il tuo invito, sarò a Sanremo, è semplicemente la formula che Maria De Filippi USA per C'è posta per te. Quindi una forzatura da titolo con, immagino, Marta, ci possa essere un po' di coda di polemica, perché insomma il volto più importante, no? Sì, tra l'altro, allora, da un certo punto di vista la polemica, perché comunque la conferenza stampa in cui si annuncia tutto è domani alle 12 a Sanremo, quindi la notizia è bruciata, insomma, giornalisticamente si fa, certo che inventarsi un'intervista o una dichiarazione, questo no. Sulla presenza di Maria De Filippi era nell'aria da anni, lei già era stata ospite una volta, che Carlo Conti volesse puntare altissimo per il suo terzo e ultimo anno da direttore artistico e conduttore era abbastanza normale. Insomma, una pax televisiva dopo l'ultimo dell'anno in collegamento tra Canale 5 e Rai 1, ormai direi assodata, era nelle cose. Va bene, grazie. Sì. Grazie Marta Cagnola, aspettiamo la conferenza stampa di Sanremo. Dunque adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi ci ritroviamo e torniamo a parlare di immigrazione, perché è iniziato il giro di colloqui del Viminale con le varie regioni per capire che cosa fare sulla collocazione dei CIE, sulla distribuzione di migranti e profughi. Si è iniziato ieri con il Friuli Venezia Giulia ed è là che andremo innanzitutto. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte abbiamo parlato di questa operazione che ha portato a due arresti per spionaggio informatico ai danni di politici e vertici istituzionali, tra cui anche Renzi, Monti e Draghi. Abbiamo parlato dell'accordo saltato tra il Movimento 5 Stelle e i liberali europei di Verhofstadt, abbiamo parlato del maltempo e abbiamo parlato di calcio e l'allargamento dei campionati del mondo a 48 squadre a partire dal 2026. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo dal Friuli Venezia Giulia. È iniziato ieri il giro di colloqui, come vi dicevo pochi istanti fa, tra il governo e le varie realtà territoriali, in particolare le regioni. Ieri il prefetto Mario Morcone ha tenuto una conferenza telefonica con i prefetti, anche con i vertici della regione, sul tema dell'immigrazione. Siamo in linea con Gianni Torrenti, che è assessore alla cultura, allo sport e alla solidarietà della regione, appunto Friuli Venezia Giulia. Assessore Torrenti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, ascoltatori. Allora, mi sembra che Morcone ieri sia innanzitutto stato piuttosto duro con i prefetti su quello che devono fare nel momento nel quale i sindaci non accettano di accogliere profughi, richiedenti asilo o migranti. Cioè, ha detto abbastanza chiaramente, l'estrema ratio è decidete e piazzateli voi, ho capito bene? Ma diciamo, Morcone non fa altro che cercare di applicare, diciamo, l'accordo ANCI interni, quindi l'ANCI ha dato disponibilità all'accoglienza diffusa sul territorio e quindi non è possibile che solamente un terzo, diciamo, dei comuni italiani accolgano e gli altri no, perché questo va a scapito proprio di coloro che accolgono. Quindi I numeri da voi sono 90 comuni su 200 circa, no? Più o meno. Sì, esatto, circa, quindi sono poco meno della metà. Buoni, però se accogliessero una cinquantina in più chiaramente sarebbero a sollievo di quei comuni, soprattutto i comuni capoluogo, che ne accolgono troppi rispetto alla loro popolazione, perché, quindi hanno anche difficoltà di gestione. Perché Torrenti, nei comuni capoluogo i numeri sono importanti, mi sembra di capire. I numeri sono importanti in modo particolare a Udine, dove sono oltre 1000, ma hanno raggiunto i 1500 su 100.000 abitanti, e sono poi anche altre concentrazioni, sono anche superiori all'1%, diciamo, della popolazione, e quindi, diciamo, significativi anche per la difficoltà di gestione di due etnie, quelle pakistane e quelle afghane, che non sempre vanno d'accordo, e quindi con numeri piccoli non ci sono problemi, con numeri concentrati questi problemi possono non sorgere. Senta, ha sentito, immagino, nei giorni scorsi le parole del ministro degli interni Minniti, certo. Ha sentito delle ipotesi di apertura o di riapertura, per quanto immagino vi riguardi, di un CIE in ogni regione, un CIE, un centro di identificazione ed espulsione. E il CIE da voi era quello di Gradisca di Sonso, in Friuli Venezia Giulia, dove in questo momento c'è un CARA, un centro di accoglienza per richiedenti asilo. Mi sembra di capire che però il CIE di Gradisca non possa riaprire, o non volete che riapra? Allora, diciamo, dal punto di vista quantitativo l'area del CIE è, diciamo, è tutta occupata. Lì c'era un CIE e un CARA, sono tutti i posti utilizzati come CARA, anzi ce ne sono 100 in più della disponibilità ed era uno dei più grandi d'Italia, perché in questo momento lì ci sono ben 500 persone. Quindi il problema non è, noi non avremo una penalizzazione all'apertura del CIE numerica, anzi probabilmente se ne abbassa il numero delle persone perché non ce ne stanno di più. Il problema è che CIE così come erano impostate non funzionavano e quindi lì c'è stato un morto, ci sono stati moltissimi disordini, incendi, perché i CIE sono costruiti per poter tenere le persone per alcune settimane, un paio di mesi e non certamente per un anno e mezzo in libertà, come dire, anzi non libertà, è un regime carcerario mascherato, ma in realtà non possono uscire e non ci sono neanche la possibilità in realtà di trattenerli in modo armato perché non ci sono guardie armate. È il funzionamento dei CIE che va ripensato e quindi noi siamo contrari alla riapertura dei CIE perché non funzionavano. Poi se questi centri fossero gestiti diversamente che nel passato, fatta l'esperienza, vediamo. Mi sembra Torrenti che all'ipotesi di riapertura dei CIE ci sia più opposizione all'interno, come dire, del partito del ministro Minniti e del governo che da altri, perché voi che siete una giunta PD, il sindaco di Bologna Merola, il presidente della regione Toscana Rossi, insomma mi sembra che il quadro si stia componendo in questa direzione, la stessa CGIL è contraria. Ma guardi, ci hanno in Italia 1650 posti se riaprono tutti, quindi se le persone stanno un mese dentro hanno una funzione, se le persone stanno un anno non servono a nulla perché certo. 1600 persone. Quindi il problema è il funzionamento, noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle, tutte le regioni che ce l'hanno avuto, il non funzionamento, Minniti lo sa benissimo, anche lui ha un'idea ovviamente di migliorare, di modificare la funzione. Bisogna fare prima quello, prima di pensare a una riapertura, perché avere delle carceri mascherate, senza guardie professionistiche, senza guardie armate, piene di, diciamo, piene di persone che non sanno che fine fanno anche per 18 mesi, non può funzionare. Quindi il discorso non è non avere dei centri dove isolare i malintenzionati, quelli che hanno fatto atti di delinquenza, magari anche minori, che vanno espulsi. Quello beata l'ora perché li isoliamo da tutte le persone per bene che ci sono e che chiedono asilo qui. Però diciamo vanno ripensati come modalità di funzionamento. A quel punto credo che il PD diciamo sia assolutamente d'accordo. E d'altro canto era una legge fatta da noi. Lei dice basta che funzionino bene. E l'esperienza ormai ce la siamo fatta. Credo che anche i prefetti sono dati sempre opinione nostra. La ringrazio, grazie Gianni Torrenti, assessore alla cultura, sport e solidarietà della regione Friuli Venezia Giulia. Rapido giro nel freddo, fa freddo, lo sappiamo, un po' di problemi ve li abbiamo raccontati. Beh, oggi non ci resta che andare a Roma a sentire quello che sta succedendo nelle scuole, perché pare che il 20-30% degli istituti sia a malapena in grado di fare lezioni, se non addirittura non sia in grado. Professoressa Elisabetta Giustini, che è la dirigente scolastica dell'ITIS Galileo Galilei, siamo all'Esquilino, 1000 studenti, quanti hanno fatto lezione, preside? Sì, ma guardi, i nostri studenti sono molto più saggi dei nostri amministratori, perciò gli studenti sono entrati a scuola questa mattina per fare lezione così come ieri hanno patito il freddo nelle aule e comunque hanno fatto lezione. Che temperature c'erano, Giustini? Ma guardi, assolutamente intorno allo zero, perché noi abbiamo una scuola di 12.000 metri quadri, la nostra scuola è del 1918, quindi per scaldarla ci vogliono dei giorni interi. E in ogni modo i ragazzi poi oggi all'ingresso a scuola hanno di nuovo verificato la mancata accensione dei riscaldamenti le ore precedenti la loro, diciamo, l'apertura della scuola e a un certo punto dopo la ricreazione hanno deciso di andarsene. Soggiornare. No, non se ne sono andati perché le dicevo sono... I nostri studenti sono saggi, i nostri docenti sono molto, diciamo, hanno cura di loro e io stessa ho parlato con loro. Hanno soggiornato nell'atrio, però insomma in uno stato naturalmente di disagio, soprattutto. Giustini, però mi spiega perché non vengono accesi i riscaldamenti? Questa è una cosa che mi fa impazzire. Cioè, ma perché? Guardi, fa impazzire più noi che lavoriamo in certe condizioni. Sì, ma c'è una spiegazione, la spiegazione burocratico-legale per la quale non vengono accesi i riscaldamenti 3 ore prima che arrivino i ragazzi. Ma guardi, anche se fossero 3 ore non sarebbero comunque sufficienti. Vabbè, capiti però. Abbiamo chiesto appunto, ben prima dell'epifania, quando è iniziato il freddo, di accendere i riscaldamenti anche per non far ammalare il personale che comunque deve garantire il servizio pubblico, perché i riscaldamenti sono accesi dal 20, sono spenti dal 23 dicembre, sono stati riaccesi il 9 gennaio e noi abbiamo lavorato a scuola in queste condizioni comunque. Mi scusi Giusini, ma vengono spenti di notte i riscaldamenti? Vengono spenti alle 13. Alle 13 tutti i giorni e riaccesi a che ora? La mattina all'ingresso, quando i ragazzi entrano, sono ancora spenti perché la macchina e si accendono intorno alle 7 allora e mezza della mattina. Perciò ecco. Allora è chiaro che non si scalda. Cioè, è certo evidente che non si scalda, è logico. Però noi non possiamo neanche, diciamo, io devo dire che ho i tecnici della città metropolitana che intervengono quando li chiamiamo, fanno quello che possono, ma non hanno disposizioni. E se hanno disposizioni contrari all'accensione, così come non possono, non possono accendere. Evidentemente, la ringrazio. Grazie Elisabetta Giustini, preside all'ITIS Galileo Galilei, e invece al liceo scientifico Pascal di Pomezia Laura Virli è la dirigente scolastica. Buongiorno, mi sembra aver capito che c'è gente che si è portata le stufette. Sì, oggi i ragazzi della quinta superiore, siccome avevano un'attività importante, quella della simulazione della terza prova, pur di non posticiparla, mi hanno chiesto il permesso di portarsi una stufetta in aula per poter comunque fare questa che poi attività. Sarebbe pure illegale, tra l'altro. Sarebbe pure illegale, infatti diciamo veramente che non l'ho fatto, che non ho dato l'autorizzazione. Però me lo sta dicendo in radio. La simulazione della terza prova comunque l'hanno fatta, anche perché anche io ho degli studenti angeli e ho anche del personale con un grande senso del dovere. Ci tengo a sottolineare il fatto che forse diciamo è sfuggito, che ha detto la mia collega Elisabetta Giustini, che normalmente saluto, ci conosciamo da sempre. Durante le vacanze di Natale, da sempre nelle scuole viene chiuso il riscaldamento per una questione di risparmio, considerando che le scuole comunque sono aperte, perché noi comunque operiamo tutti i giorni, tranne diciamo i giorni festivi di Natale e l'ultimo dell'anno, eccetera. Sappiamo, quindi quando abbiamo visto che si calavano le temperature, sabato mattina, già il 7 mattina, tutti noi dirigenti scolastici abbiamo chiesto alla città metropolitana di accendere prima i riscaldamenti, prima diciamo della mattina del 9 gennaio, prevedendo questo calo della temperatura come diciamo tutti gli anni. Risposta? Noi ci hanno risposto il sabato mattina, e tant'è che ieri mattina l'accensione del termosifone è stata ieri mattina alle 5, i ragazzi alle 8 meno un quarto erano già dentro scuola, lei capisce bene, nella mia scuola probabilmente c'erano 7 gradi quando andava bene, 7 gradi di temperatura, però la cosa più grave è stata che hanno probabilmente spento i termosifoni a mezzogiorno. Quindi quando io mi sono un po' allertata, ho detto guardate, non li spegnete oggi a mezzogiorno, fate in modo tale che non vengano spenti fino a domani. Allora alla fine ovviamente li hanno comunque spenti, ieri pomeriggio hanno mandato una PEC, il direttore Esposito della città metropolitana ha disposto per tutta la settimana, viste le condizioni aperte, di iniziare l'accensione alle 4 di mattina e di terminare l'accensione in via del tutto straordinaria alle ore 13. Ma nella maggior parte delle scuole che non sono diciamo i classici, che non hanno la settimana corta, i ragazzi rimangono fino alle 14:15, quindi già in una situazione normale alle 13 non se ne esce. A mezzogiorno e un quarto i termosifoni già sono pieni. Non resta che aspettare che passi il freddo. Grazie Laura Virli del liceo scientifico Pascal di Pomezia. Per chiudere questa prima parte del nostro giro per l'Italia, a Canicattì in Sicilia, dove un medico è stato aggredito in corsia dai parenti di un paziente. Il precedente la settimana scorsa a Catania. Vincenzo Asaro è il direttore sanitario del presidio ospedaliero Barone Lombardo. Spero di aver detto giusto. Asaro, sì, l'accento è giusto? Augello. Eccoci qua. Allora, che cosa è successo? Ma è successo un'aggressione da parte di un paziente che si era recato al nostro pronto soccorso per lamentando un dolore al torace, da parte del paziente e da parte di due figli dello stesso paziente. Perché per la verità non, non viene facile capirlo. Il medico che stava visitando questo paziente aveva cercato di rassicurare il paziente che il sintomo che avvertiva era riconducibile soltanto a uno stato di ansia, quindi era più preoccupato, sì, di quello che avrebbe. Questo evidentemente ha irritato paradossalmente queste persone, diciamo, sì. No, perché sa che c'è stato un altro caso a Catania, è per questo che il fatto c'è. Ma il fenomeno diciamo, di persona, questo episodio di giorno 5 qui può essere considerato un episodio legato al temperamento del paziente, però in realtà si tratta di un fenomeno che è sempre più frequente e che probabilmente è spinto anche dall'informazione che a volte non va bene in questo senso. Mi riferisco alla esaltazione di tutti i casi di cosiddetta malasanità, all'impatto medico-legale che è sempre più pesante sull'azione del medico, sulla professione del medico. Per cui il medico ha perso quel rispetto che c'era una volta, dice lei, e quindi la gente lo aggredisce. La ringrazio, grazie al direttore sanitario dell'ospedale Barone Lombardo per essere stato con noi. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa per la borsa e poi questa vicenda, devo dire, per certi versi incredibile, di un ragazzo di 13 anni che è stato tolto alla madre dal tribunale dei minori perché a quanto pare troppo effeminato. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: spiati politici e vertici istituzionali, due arresti a Roma tra le persone intercettate a Renzi, Monti e Draghi. Protesta della base contro Grillo dopo il fallimento dell'accordo coi liberali al Parlamento europeo. Strade gelate, incidenti e code a nord-est, ancora neve al sud e molte scuole chiuse in varie parti d'Italia. Immigrazione, inizia il pressing sulle regioni, Morcone ai prefetti friulani, se i sindaci non accolgono imporre le quote. È ufficiale, dal 2026 il mondiale di calcio sarà 48 squadre invece delle 32 attuali. La borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Effetto giorno. Tende in tutti i modi ad affermare che è diverso e ostenta atteggiamenti effeminati in modo provocatorio. Le parole sono del Tribunale dei Minori e questa vicenda ci porta a Padova, dove un ragazzo di 13 anni per questi motivi rischia di essere allontanato dalla madre. Siamo in linea con l'avvocato della famiglia, Francesco Miraglia. Buongiorno avvocato, benvenuto. Sì, buongiorno ai suoi ascoltatori. Allora, capirà che la vicenda ci stupisce abbastanza. Che cosa c'è dietro tutto questo? Guardi, sinceramente non lo so, è talmente fuori dalla logica un discorso del genere che veramente si fa fatica anche a dare una spiegazione. È incredibile che in questo momento storico, dove si parla di adozioni gay, di utero in affitto e quant'altro, si possa leggere in un provvedimento di un tribunale che un minore deve essere allontanato perché ha dei punti di riferimento solo femminili e quindi potrebbe avere in futuro una devianza sessuale. Mi sembra un discorso, non dico razzista. Mi scusi, nel provvedimento del Tribunale dei Minori si parla di devianza sessuale in merito all'ipotesi che possa diventare omosessuale? O che possa penso esserlo? Penso che sia una devianza sessuale rispetto ad essere eterosessuale, penso che sì. E questo lo scrive il Tribunale dei Minori. Sì. Senta, perché il ragazzo vive con la madre e con le sorelle? Sì, no? Vive con la mamma, con le due sorelle, e la causa scatenante, se così possiamo dire, è che un giorno si è fatto dare dello smalto alle unghie e una volta si è presentato un po' truccato. Ma ammesso e concesso che questo ragazzino ha degli atteggiamenti tra virgolette affeminati, che si fa? Si allontana dalla famiglia? No. Si considera diverso? Senta, la storia, diciamo, è anche più complessa, no? Perché in passato c'è stata un'accusa al padre di questo ragazzo di abusi nei suoi confronti, una vicenda giudiziaria. Adesso il padre non è più con lui, però c'è anche questa vicenda dietro, sì, no? Sì, c'è questa vicenda, ma che è tuttora pendente in Corte d'Appello a Venezia, ma che non c'entra assolutamente nulla con quest'ultimo provvedimento del Tribunale per i minorenni, certo, che ha stabilito l'allontanamento dalla mamma, immediatamente esecutivo. E tra l'altro il Tribunale dovrebbe spiegarci, e spero che lo faccia il 17, il giorno dell'udienza, in quale comunità, se esistono delle comunità che possono, sono preparate ad accogliere, tra virgolette, bambini del genere, e come intende poi gestire, perché di solito in comunità la comunità già raccoglie di per sé ospiti che vengono da situazioni problematiche. Immaginiamoci che arriva un ragazzino e dopo un po' si sparge la voce che è un po' affemminato, che gli piace farsi truccare oppure si dà lo smalto alle unghie. Che facciamo? Poi parliamo di tragiche fatalità? Ma il tribunale o vive un'altra realtà o non vive assolutamente la realtà di tutti i giorni. Questo è il quadro che arriva appunto al Tribunale dei Minori. Ma adesso che cosa succederà sostanzialmente? Il ragazzo viene affidato ai servizi sociali, cosa succede? Il ragazzo è già affidato ai servizi sociali. Teoricamente dovrebbe essere ottemperato l'ordine del giudice, che è quello di allontanarlo immediatamente dalla mamma, dal suo ambiente familiare, e addirittura lontano dal territorio di provenienza. Cioè, mi sembra che veramente siamo all'assurdo. Quindi dovrebbe essere portato in un'altra città, sì, in un'altra città. Perché dovrebbe rapportarsi con un altro ambiente, non quello femminile identificato in quello d'origine. Miraglia, su cosa si sono basati i giudici nel prendere questa decisione? Una relazione di una psicologa del 2012 e soprattutto dalle relazioni aggiornate del servizio sociale della comunità diurna che il ragazzino frequentava. Solo ed esclusivamente. Perché il ragazzino già frequentava una comunità diurna. Sì, diurna. E come mai frequentava questa comunità diurna? Perché proveniente dal procedimento penale. Da quel procedimento penale precedente, in sostanza. Sì, in sostanza è questo, però voglio dire, alla base c'è una relazione di una psicologa del servizio sociale e della comunità. Non stiamo parlando di maltrattamenti, non stiamo parlando di abusi, al di là del procedimento penale, che quello ha una sua strada autonoma. Non stiamo parlando di nulla, stiamo parlando di un atteggiamento affemminato, ma questa è pura discriminazione. Allora, avvocato, io la ringrazio innanzitutto per averci dato questo quadro della situazione, l'avvocato Francesco Miraglia, che è l'avvocato della famiglia, che si sta occupando di questa vicenda. Evidentemente, in questa vicenda, che è una vicenda oggettivamente delicata, che è stata portata alla luce dalla stessa famiglia, come dire, ci possono essere dei punti di vista diversi. Nei prossimi giorni, nelle prossime ore, andremo a cercare anche altre indicazioni, vedremo se riusciremo a rintracciare le carte e possibilmente anche parlare con il Tribunale dei Minori e capire per quale motivo abbia preso una decisione di questo genere, se sia effettivamente, come ci ha raccontato l'avvocato, sulla base di questa relazione di servizi sociali, nella quale si dice che il suo mondo affettivo risulta legato quasi esclusivamente a figure femminili e quindi, come dire, proprio perché chissà perché, effeminato, viene allontanato dalla famiglia, oppure se ci siano altre motivazioni, magari più fondate di questa, che non lo è evidentemente per nulla. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.